mia, ogni di voglio sapere, ogni di voglio sapere, e qui comando io, e questa è casa mia, ogni di voglio sapere chi viene e chi va. Devi pagarle con sangue e dolor, finché la luna, finché la luna. Devi pagarle con sangue e dolor, finché la luna la cambia il color. E qui comando io, e questa è casa mia, ogni di voglio sapere, ogni di voglio sapere. E qui comando io, e questa è casa mia, ogni di voglio sapere chi viene e chi va. Quando la luna la cambia il color, vieni che l'ora, vieni che l'ora. Quando la luna la cambia il color, vieni che l'ora per fare l'amore. E qui comando io, e questa è casa mia, ogni di voglio sapere, ogni di voglio sapere. E qui comando io, e questa è casa mia, ogni di voglio sapere chi viene e chi va. Ogni di voglio sapere, ogni di voglio sapere, e qui comando io, e questa è casa mia, ogni di voglio